GR Europa. Tassi di interesse sempre fermi allo 0,75% nell'area euro. Per il nono mese consecutivo la Banca Centrale Europea ha confermato lo status quo in linea con le attese prevalenti. Nell'area valutaria l'inflazione continua ad attenuarsi. A marzo ha rallentato all'1,7% secondo i dati forniti ieri da Eurostat, mentre il trascinarsi della recessione porta a ricadute sociali sempre più pesanti. La disoccupazione ha segnato un nuovo record al 12%. Arrivando a coinvolgere oltre 12 milioni di persone. Il programma presentato da Cipro per il risanamento dei conti e le riforme necessarie per avere gli aiuti UE Fondo Monetario prevede un aggiustamento fiscale ben ritmato e riforme strutturali onnicomprensive. Lo affermano in una nota il commissario UE Olli Rehn e il direttore del Fondo Monetario Christine Lagarde, che ha annunciato tra l'altro che il fondo parteciperà con 1 miliardo di euro al pacchetto di salvataggio da 10 miliardi per Nicosia. L'India dice no a Novartis, negando il brevetto sul grande mercato indiano per il farmaco anticancro Glivec. Secondo Vittorio Prodi, membro della Commissione Sanità del Parlamento Europeo, la sentenza è un monito per tutti. Valeria De Rosa lo ha intervistato. Noi ci abbiamo ragionato parecchio, ecco, perché diciamo, il sistema brevettuale è quello che ha garantito ricerca, sviluppo e progresso. Ecco, certamente ci sono delle situazioni in cui le cose sono state portate troppo avanti, perché se è vero quello che hanno letto i giornali, che sa che appunto si tratta di una piccolissima variante della molecola, e questo per cercare di prolungare la vita del brevetto, e che evidentemente è contrario al patto brevettuale, che cioè il monopolio in cambio di conoscenza per la società. Dovremmo togliere degli alibi alle case farmaceutiche, le aziende farmaceutiche si fanno schermo di questo costo, perché è un farmaco portato sul mercato complessivamente arriva a costare un paio di miliardi di dollari, ecco. Quindi il finanziamento pubblico è una di queste cose, la ricerca necessaria, dobbiamo cercare di farlo funzionare, e questo è un monito, questo del pronunciamento della Corte Suprema indiana, è un monito perché il gioco sia leale. Il Real Madrid è sotto inchiesta preliminare per aiuti di Stato che sono vietati dall'UE. La notizia è stata confermata dal portavoce di Joaquín Almunia, lo spagnolo vicepresidente della Commissione UE, responsabile per la concorrenza. Indagini analoghe riguardano club di diversi paesi, ha detto il portavoce, ricordando che sul Real non è stata ancora aperta un'inchiesta formale, come invece è già successo alcune settimane fa per delle società olandesi. E con questo per GR Europa è tutto. Ritorniamo domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.